9 in punto, la versione di Oscar. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. L'avete riconosciuta, voglio sperare che l'abbiate riconosciuta anche tra coloro, tra voi che non sono proprio dei fanatici del soul e non pensano che l'incrocio tra il blues e il gospel sia praticamente uno dei più grandi doni che attraverso alcune grandi della musica come Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles è stato dato da Dio a noi tutti. E se siete però, avete anche una qualche frequentazione col soul, sapete che negli anni recenti questa voce, una voce di una persona che non c'è più, era una voce che vi aveva acceso dentro qualche cosa che, almeno per me che ho un po' di anni in più, quando eravamo più giovani ci accendevano dei dischi particolari, perché questa voce era una voce che graffiava ed era una voce calda, come devono essere le voci del soul, come sono le voci del blues, del gospel. Era una voce che parlava di sofferenza, era una voce che parlava di dolore, e come troppe volte è avvenuto nella storia, ancora una volta questa voce che graffiava ed era calda, la voce di Amy Winehouse, è la voce di una che è finita male esattamente come nelle sue canzoni. Questo no, io vi pongo oggi una domanda che, d'accordo, non c'entra con i mercati che rivanno male perché c'è il debito americano, non c'entra con le tangenti, il PD, non c'entra con la casta. Per una volta poniamoci una domanda diversa, se me lo consentite, anche nella mia trasmissione, perché in definitiva siamo uomini e siamo donne, e abbiamo delle passioni, la musica è uno di questi, e poi la vita buona è per tutti noi una sfida ed è insieme qualche cosa che non è detto che riusciamo ad adempiere davvero. E allora, quando una voce come questa e una persona come questa, quando una persona che non ha equilibrio nella vita, è sempre stato così da chi aveva successo e forse anche prima, per gli uomini che ha incrociato, per gli amori che non è riuscita a compiere, ha iniziato ad autodistruggersi in pubblico, non riusciva più a fare un disco dopo i due che sono tutto quello che ha fatto, e quando assistiamo poi alla morte in diretta annunciata con la madre di Amy Winehouse che dice le avevo chiesto se voleva essere cremata o se voleva essere inumata, quando tutti si aspettano che finisca esattamente come finisce, la mia domanda è: voi come la prendete? Coi vostri figli, se avete la mia età, ne parlate? E cosa siete capaci di dire se una ragazza di 27 anni con questa voce muore così? Allora, di questo interrogativo, che è un interrogativo che ha a che fare con i simboli, con la musica, con la storia dannata dello Star System, ma anche con la vita, e innanzitutto con la vita di voi tutti, visto che poi queste sono le cose che hanno impatto, visto che in tutto il mondo poi ora tutti riscarichino i suoi dischi, visto che i giornali poi macinano la solita leggenda dei 27enni e vai con Jim Joplin, e vai con Kurt Cobain, e vai con questo. Allora, la faccenda diventa: riusciamo a parlare di questa persona e di questo caso, musica da una parte e Star System dall'altra, ma anche vita di noi tutti in mano, e avendo attenzione a che cosa queste vicende di autodistruzione implicano, con l'indifferenza che proiettano e con, ci scommetterei, lo vedo dalle prime reazioni al 349-238-6666, molti di voi che dicono ma chi se ne frega dello Star System, ma cavoli loro se hanno successo, soldi e non riescono a tenersi in piedi, ma guarda che di giovani buttati per strada senza che nessuno se ne occupi e che non hanno un euro in tasca ce ne sono tanti, e perché occuparsi di lei? Perché in questo caso, la mia opinione, questi diventano icone, simboli, diventano miti che trasmutano nel tempo, si fissano nel cielo delle stelle dello spettacolo e diventano simbolici, evocativi, purtroppo temo ripetitivi ed evocativi anche di ripetizione, perché in definitiva, la droga, perché in definitiva, l'alcol, perché in definitiva, l'autodistruzione che si associa, al contrario del principio del piacere, quando si eccede con tutto questo, si assume di tutto questo nella vita e diventa l'ABC, quella è qualche cosa che ci abbiamo dentro, che è inscritto in una specie di codice dell'antimodernità, che sta, diciamo, da qualche secolo identifica chi, proprio perché dall'alto è stato tratto col proprio talento, dall'alto vede qualcosa che non gli piace e si autodistrugge. Io non sono affatto un fautore di questa antropologia, ma non mi nascondo che ha degli effetti, ha delle ripercussioni ed è un simbolo anche dei nostri tempi, non solo dei nostri tempi ma dei tempi in cui viviamo. Per questo con alcuni ospiti oggi ci poniamo la questione di Amy Winehouse come talento strepitoso ma anche come donna che si è autodistrutta sotto gli occhi di tutti. È una questione non di oggi, di sempre, però forse anche per questo lei l'ha fatto, sia pure nella solitudine, e allora tanto vale parlarne. Sono con noi, e li ringrazio molto per affrontare questo tema, Dario Salvatori, mio mito personale, critico musicale, lo ringrazio molto, buongiorno Dario Salvatori, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Annalena Benini, giornalista del Foglio, a cui ricordo sempre in extremis quando devo incrociare temi delicati che hanno a che vedere con la donna e il senso della vita e l'intelligenza che a molti uomini manca, buongiorno ad Annalena. Buongiorno a tutti. E il dottor Vincenzo Marino, che è uno psichiatra e direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Varese, e diciamo ha una esperienza abbastanza estesa e ampia di casi di tentata autodistruzione di molti esseri umani. Buongiorno al dottor Marino. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dario, cosa resterà alla fine di Amy Winehouse della storia della musica? Effettivamente, come dicevi tu, sicuramente due dischi, che sono poca cosa, e resterà questo stile di vita. Lei ha portato il suo stile di vita alle estreme conseguenze e poi le ha pagate. In riferimento alle grandi storie maledette del passato c'è una differenza sostanziale, che all'epoca il rock business in qualche modo accettava e favoriva certe bizzarrie delle rock star. Oggi il rock è fatto da salutisti o da presunti salutisti che non tollerano certi comportamenti perché non tornano utili. Prova ne sia che il manager della Winehouse ha abbandonato la sua cantante, la sua gallina dell'oro d'oro, perché capì benissimo un paio d'anni fa che non avrebbe più ripetuto, che non avrebbe avuto modo di ripetere diciamo i suoi exploit. E questo è un segnale, secondo me. Non sono molto d'accordo sul fatto dei giovani un po' disperati che protestano contro rock business e contro certe situazioni, perché poi ne usufruiscono anche loro e se ne avvantaggiano in qualche modo, e quindi è cambiata però l'epopea, però c'è un po' di stanchezza, ecco, questo è. Oggi si preferisce diciamo ricorrere allo yoga, alla Kabbalah, uno stile di vita più salutista, piuttosto che entrare nell'esistenziale del pubblico. E in fondo la differenza fra il rock storico degli anni 70 è che i ragazzi volevano avere quello stile di vita delle loro rockstar. Oggi non più, si sonorizza la propria giornata con una musica, ognuno la sua, ma nessuno vuole entrare nei panni di questi personaggi, e questo ce la dice lunga. E la dice lunga sul fatto che la commercializzazione arriva da questo punto di vista anche a spersonalizzare e a omologare, cioè si diventa per forza dei simboli che devono aspirare alla buona vita, oppure la dice lunga del distacco assoluto, del fatto che ovviamente le possibilità di fruire ciascuno a modo suo diversamente tecnologicamente in definitiva rendono anche meno interessante l'identificazione col grande artista? L'identificazione è minore fortemente, ma questo deriva anche da altri fattori, principalmente da fattori legati alla tecnologia e alla comunicazione. L'affezione prima era molto alta perché si prendeva in mano un disco e si immaginava tutto il resto. La mia generazione, io per primo, io mi sono vestito copiando le copertine dei dischi, qualcuno dirà beh si vede, però quello era un'identificazione quasi totale. Oggi non c'è più, perché i dischi, o quello che rimane dei dischi, cioè pochissimo, non lo consentono più, perché è impossibile capire chi suona il basso, è impossibile vedere fotografie. Oggi il supporto è morto, la musica è liquida, e quindi l'identificazione è passata altrove, insomma. Io non so se questo sia un bene o un male, però certamente la passione è minore, noi abbiamo un mondo discografico che è praticamente distrutto e che è in mano alla telefonia, a altri vettori, e il mondo della musica dal vivo, che era rimasto come l'unica grande momento, grande collante e aggregazione, ha dei grossi problemi, soprattutto quest'estate. Quindi bisogna vedere, insomma, quello che succederà. Poi è ovvio che le rockstar fanno i conti con il proprio stile di vita. L'esternazione di Vasco Rossi sul ritiro, il finto ritiro che nasconde solo furbizia emiliana e paesana, fa il paio invece con meravigliosi settantenni tipo Keith Richards o Lou Reed, che sono stati proprio sull'orlo del precipizio per tanto tempo, però sono lì. Molta fortuna, perché secondo me ci hanno danzato per anni in una maniera che avrebbe schiantato chiunque. Io a volte penso che c'è una stella dall'alto che le ha protette, sono... anche qualche clinica svizzera insomma di un qualche prezzo elevato, per così dire. Tra l'altro Lou Reed, ci dicono ascoltatori romani che erano al concerto, era molto, insomma, quando gli ha ricordato Amy Winehouse era molto commosso. Secondo me deve aver pensato che gli è andata bene non si sa quante volte rispetto a invece la ragazza. Aggiungerei anche Patti Smith a questo gruppo, la quale però è un bluff a differenza degli Uribe e di questo è un altro discorso. Sono abbastanza. Quindi tu dici l'effetto per tutte queste ragioni in realtà è molto più limitato di un tempo, se ho capito bene, Dario. Sì, è limitato perché insomma le suggestioni dei ragazzi sono altrove da quello che possiamo capire. Ho capito. Allora Annalena, però perché alla fine l'effetto sembra, poi siamo al secondo giorno, magari al quarto giorno tutto è finito, non c'è più, non ci sarà l'effetto Lady Di, non lo so, vedremo, ma perché comunque lì per lì l'effetto che fa questa sbiellata che ha fatto solo due dischi e che non riusciva a reggersi su un palco perché ogni volta era un gradino più giù nell'autodistruzione, comunque ottiene l'effetto di far fermare il mondo e di far sembrare il suo dramma qualcosa di più di quello di una sbalestrata non amata e incapace di intendersi e di volersi parentesi bene, perché invece sembra che malgrado questo distacco in Amy Winehouse ci sia almeno un segno non troppo lontano di medesimazione da parte di non solo dei giovani ma trasversale, e tutti si fermano un po' a riflettere. Tu che pensi? Io intanto penso che Amy Winehouse fosse un genio di grandissimo talento e quindi fosse anche solo per questo lontana dal lugubre cliché dell'artista maledetto, anche se c'era dentro fino al collo e come si è visto da questa terribile fine che diciamo non l'ha resa diversa dagli altri, però l'ha anche diciamo resa più autentica di molti. E poi la sua fragilità è una fragilità, devo dire, assolutamente femminile. Le sue era impossibile non immedesimarsi in quel suo barcollare sul palco cantando una canzone sull'amore perduto, perché Back to Black sappiamo bene che era questo. Ma non è anche una cosa che fa profondamente incazzare l'idea che poi ci sia e sia questa l'eterna raffigurazione, non lo dico da femminista, non lo so, ma voglio dire che sia questa l'eterna raffigurazione della debolezza che si rivolge a uomini ancora più sbagliati di lei per dire è colpa vostra poi che non mi amiate. Non lo so, a me questa roba di Amy Winehouse, malgrado mi piacesse da impazzire, la sua voce non mi ha mai convinto. E però la rendeva, diciamo, una ragazza così moderna, così rock, con il mondo ai suoi piedi, con un successo da giovane, da molto giovane, un look, come abbiamo visto, che faceva comunque impazzire tutti, perché era, cioè, questi capelli assurdi, le palettate di eyeliner sugli occhi, i tatuaggi, erano una cosa davvero un pochino finalmente diversa. L'idea che una così comunque alla fine se ne fregasse di tutto e stesse male per un uomo che era sicuramente... Ma si può stare per male? No, la domanda, te lo chiedo proprio, tu, non siamo coetanei, tu sei molto più giovane di me, ma si può star male per Pete Doherty? Io questo, dal punto di vista di una donna, ma come può star male per Pete Doherty e tagliarsi le braccia insieme? Io non lo so, sono cose che sono più forti di me. L'amore ha delle ragioni che il cuore non conosce e tutto uno strano equilibrio che Amy Winehouse non è riuscita a trovare. Ma il problema è che l'eterno maschile rappresentato di uno che ti aiuta a morire perché non ti vuoi bene, tutti i suoi uomini, tranne l'ultimo che infatti il regista lì, Ray Travis, come si chiama, che è tutto carino, tuto impettito, che dicono tutti che adesso è pentito, ma non c'è pentito perché non ce l'ha fatto, perché uno, insomma, un regista che sembra abbastanza normale, che non passa la vita ad autodistruggerti, lei amava quelli che la distruggevano. Perché amava anche la droga, che era la cosa più assoluta che la distruggeva. Amava purtroppo il precipizio e il buco nero, e quando hai qualcosa di rotto dentro, io credo che fosse questa la cosa più importante, più definitiva su di lei, e un problema così grande e vero di dipendenza, non cerchi quello che ti fa star bene, ma cerchi quello che ti tira ancora più giù. E mettiamo che adesso tu, facciamo un balzo nel tempo, improbabile che tu sia più avanti degli anni e i tuoi figli siano più grandi di quello che sono, e quindi adesso fossero oggi adolescenti, diciottenni, diciannovenni, e quindi passerò tutte le notti insonni, questo ne sono già consapevole, comincio a preoccuparmi, no, già adesso. Voglio dire, di una faccenda come questa di Amy Winehouse, ai tuoi figli che cosa avresti detto? Avrei detto che questa ragazza non ce l'ha fatta, che non si è voluta abbastanza bene, che non ha chiesto abbastanza aiuto e che si è distrutta e che la vita è complicata ed è difficile, e ci sono dei momenti in cui basta veramente poco per precipitare, e però c'è sempre la possibilità di risalire, ma io penso che lei non lo volesse. Ho capito, ma se gli dici così è come dire: ragazzi, è molto possibile che se voi proviate le stesse cose andate a fondo. Non lo so, io sono dell'idea che bisogna essere più energici, e questo è un pochino il problema, che da una parte io sono vicino a chi si autodistrugge, dall'altra io sono un volontarista che dice bisogna scuoterli e obbligarli. Questa è la cosa delicata, perché di questo poi parliamo anche adesso con il dottor Marino. Io sono per gli interventi oltre una certa soglia che diventano, non dico coatti, ma quasi, quando le soglie di volontà sono oramai incertificabili e l'autodistruzione avanza come un treno contro quello della mitica canzone, allora io penso che ci voglia un intervento coatto. Tant'è che chiedo a Dario, ma quando lui dice oggi come oggi i discografici non ci sono più, è vero, però insomma i grandi interessi ci sono comunque dietro la musica, anche se i supporti sono cambiati e la musica è liquida, com'è che ha un talento come quello, qualcuno che la vede anche solo dal punto di vista dei soldi che ci si può fare con le canzoni di Amy Winehouse, non la convince per forza con un bel pacco di quattrini a segregarsi e a uscirne da un percorso di autodistruzione come questo? È troppo banale come domanda, non capita così nel mondo, Dario? No, diciamo che con qualcuno, vedendo la storia del rock, è stato possibile, e con altri no, quelli sono episodi caratteriali. Però io vorrei dire, sul mito sfortunato e sul genio un po' del male, a me mi lascia molto perplessa questa posizione. Per me queste figure così romantiche appartengono al passato. Ecco, Charlie Parker è morto povero e drogato, certamente in una casa di un'amica, e Chet Baker in un albergo, Mia Martini, tanto per rimanere a casa nostra, in una casa in subaffitto a Caldi in Umbria. Ecco, la Winehouse viveva in un appartamento di Camden di 2 milioni di sterline, per cui insomma questo genio massacrato dal business, insomma, attenzione, perché rischiamo di dire le sciocchezze. Saggio richiamo alla realtà. Dottor Marino, invece, dal suo punto di vista, una vicenda come questa è una cosa lontana, non diversa da morti quotidiane a cui si danno poche righe, o ha un significato che si può in qualche maniera utilizzare al fine di ciò che fa lei? Ma io credo, voglio dire, che la situazione sia una situazione estremizzata, che mette però bene in luce quelle che sono le caratteristiche della dipendenza da sostanze, da alcol o comunque da comportamenti. In generale diciamo che l'abuso di alcol e droghe è condizionato dall'interazione di tre ordini di fattori. delle pressioni socioculturali, quindi gli atteggiamenti del gruppo di appartenenza, le abitudini, quello che veniva definito prima lo stile di vita magari dello star system, delle persone che frequentiamo. Dall'altra parte delle caratteristiche individuali, quindi delle situazioni di disagio personale, di vuoto affettivo, in cui le droghe finiscono per essere una forma di automedicazione impropria, perché sono dei pessimi farmaci. E poi l'azione delle sostanze, perché la ragione per cui diciamo gli esseri umani da sempre hanno utilizzato le sostanze è perché producono sul nostro cervello delle sensazioni forti che vengono percepite come gratificanti. Ora, l'esperienza dell'essere umano secondo me è un'esperienza che si sviluppa tra due poli. Noi nasciamo nel paradiso terrestre dell'utero materno, diciamo un po' di quello che Platone chiamava l'androgeno, due esseri attaccati insieme, e lì non c'è la fame perché è la mamma che regola il glucosio attraverso la sua insulina a livello giusto. Non c'è freddo perché la temperatura è sempre costante, 37 gradi, né un po' di più né un po' di meno. Come dire, si è costantemente abbracciati da un altro corpo, non ci sono rumori. Via via che noi nasciamo e poi cresciamo, l'ambiente diventa progressivamente più freddo. Allora, quando le cose vanno bene, noi in qualche modo spacchiamo le montagne. Quando le cose vanno male, ecco che sentiamo dal punto di vista affettivo, sentiamo il bisogno di una pacca sulla spalla, di un abbraccio, di una carezza. Certo, essere abbracciati non è come essere completamente avvolti da un altro corpo caldo. Allora, tra queste due polarità, quindi il guardare indietro, la nostalgia per il passato, il ricercare queste sensazioni regressive nelle sostanze, nell'alcol, nella dipendenza totale da un'altra persona, sicuramente fanno parte delle fasi in cui si guarda indietro, in cui ci sono delle difficoltà. Ci sono poi le fasi in cui si guarda avanti. Credo che quindi, riprendendo il discorso educativo, l'aspetto delicato e complicato è riuscire a trasmettere sufficiente forza e coraggio per affrontare le difficoltà della vita, trasmettendo l'idea che sono affrontabili e che le modalità autodistruttive appunto conducono in qualche modo all'annientamento. Naturalmente molti hanno reagito alla mia battuta sulla soglia dell'intervento 4 per l'autotutela del drogato avviato all'autodistruzione. La questione, naturalmente, mi rendo conto, soprattutto per me che sono poi un liberale, è una questione molto delicata. Io me la pongo dai tempi in cui militavo in un'organizzazione che affrontò problematicamente l'esperienza di Muccioli tanti anni fa in Romagna con le sue comunità, in cui l'intervento coatto in alcune fasi del sostegno a chi voleva uscire dalla droga e poi non aveva la forza era una degli articoli del protocollo che si firmavano entrando nella sua comunità, e naturalmente la cosa fece molto discutere, ci fu poi il processo anche. Il problema è l'accertamento delle volontà, per così dire, ma la mancata persistenza delle volontà in un programma di uscita, di sostegno all'uscita, è coessenziale quando si ha un livello di dipendenza molto elevato. Allora la questione diventa: dobbiamo forse assumere l'intenzione dell'autodistruzione, che c'è una dipendenza di droga, come una specie di dichiarazione di fine vita e rimanere a braccia conserte? Oppure dobbiamo porci il problema, io dico l'obbligo, di aiutare la volontà che non è in condizioni di esprimersi quando si è in rientro di dipendenza, in rientro di assunzione, ma pure c'è stata una esplicita dichiarazione di volontà di iniziare il percorso? Io dico che in questo caso il mio essere liberale non confligge con l'idea di un intervento anche in certe forme, intendiamoci, coattivo. Altrimenti è come dire incrociamo le braccia e la gente muore per strada. E in questo caso non si tratta di essere liberali, si tratta di essere cinici, indifferenti. Io non credo che essere cinici, indifferenti, freddi e fottersene di chi muore sbattuto agli angoli della strada consista in questo essere umani. Ecco qua, questa era un'altra delle canzoni famosissime, Love is a Losing Game, una specie di altro inno all'autodistruzione del rapporto con uomini sbagliati di Winehouse. Molti dicono, ma insomma, è possibile mai che poi ci dobbiamo porre il problema se Amy Winehouse sia davvero un simbolo, un parametro, qualcosa di pari con i nostri figli, e non per esempio invece del caporal maggiore David Tobin, la 41esima vittima caduta in Afghanistan, caporal maggiore dei paracadutisti del battaglione Nembo. E non ditelo a me, che sapete come la penso, e la dedizione che ho, l'affetto che porto per chi indossa una divisa e rischia la propria pelle in queste missioni. È ovvio che io non posso che dirvi che dobbiamo onore, rispetto, ricordo assoluto, che quelli sono i parametri. Però il problema è che i tanti David Tobin che sacrificano la loro vita sanno di farlo senza rappresentare stelle nel cielo. Le stelle nel cielo sono come sono, brillano, a volte esplodono, a volte diventano quasar, nane rosse, pulsar, e poi scompaiono come scomparsa Amy. E il problema è che di loro si parla. Allora, se l'amore è una cosa così autodistruttiva, e ha ragione però Dario Salvatori, dice, ma i tempi sono diversi, ormai le star, il mito del rock maledetto, non c'è più l'industria discografica, quindi anzi quelli fanno i politicamente corretti, oggi in realtà sono miti solo quelli che hanno danzato sull'orla dell'abisso e ne sono sopravvissuti anche grazie a buone cliniche svizzere, oltre che una buona dose di fortuna come Keith Richards e così via. Quindi in realtà anche su Amy Winehouse inutile fare mitologie, aveva una grande, bella e ricca casa e non stava in un sottoscala, non è finito come Chet Baker e come tanti altri. Chiedo invece a Platinette l'impressione che fa la fine e ciò che resterà di Amy Winehouse, e se davvero è giusto considerarla tutto sommato una vicenda che non ha più l'impatto dei miti del rock, dello star system maledetto, perché i tempi sono cambiati, i ragazzi tutto sommato si costruiscono i loro percorsi musicali come diavolo vogliono e si fanno influenzare anche molto di meno. È così, Platinette? Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Guardi, io non so se sia così, però ho fatto una riflessione in queste ore. La morte di questa ragazza mi ha ricordato, non so per quale stradannato motivo, una decisione volontaria di scomparire dalla faccia della terra presa qualche anno fa da una cantante, forse non così famosa, ma per noi molto famosa, che si chiamava Yolanda Gigliotti, in arte Dalida. L'idea di queste donne piene zeppe dell'ammirazione altrui, ma incapaci di provare un minimo di rispetto per se stesse, me le fa accomunare in una sorta di destino non tanto disperato sulla scia delle maledette del rock, questa storia di 27 anni di Joplin, Hendrix e compagnia, ma di donne che, avendo tutto, non hanno ciò che poi alla fine conta, anche per loro purtroppo, perché adesso non la vorrei buttare su romantico e patetico, ma questa donna, lei si immagini una miliardaria diventata tale nel giro di pochissimo tempo, che chiede finalmente a un bel ragazzo per bene, con l'aria da marito, con la testa sulle spalle, quale è questo regista, Ray Travis, ecco, chiede lei a lui di sposarla. Questo cosa denuncia? Una assoluta incapacità intanto di avere un minimo di sicurezza su se stessa, no? Anche sovvertendo le regole che fanno sì che sia sempre, quasi sempre, l'uomo a chiederlo. Mi ha fatto pena la scoperta di questa dichiarazione e del suo no, del no del regista, dicendo no, poi dopo si sono ricuciti i rapporti. Insomma, la condivisione è il valore più importante, che vale sia per le rockstar, maledetto meno, francamente chi se ne frega, perché questo epilogo l'abbiamo già visto molte altre volte, francamente è soltanto una meravigliosa fonte di lucro per l'industria discografica, viva l'Occidente che riesce dalla morte a trarne qualche utile, e lo dico senza cinismo, in questo caso non è un caso, e mi si scusi il bisticcio di parole, che la signorina Winehouse sia oggi la prima in classifica, a poche ore, a pochi giorni dalla morte, iTunes è tornato a vedere il suo nome e al primo posto. Quello che voglio dire è che tutto ha senso se riusciamo a dividerlo e a condividerlo con qualcuno. Pochi di noi, che siano artisti o commesse del supermercato, hanno la capacità di reggere il peso di una solitudine che non hanno scelto. Poi che una ragazza dall'eccesso passi al decesso è francamente anche antipatico, perché da Billie Holiday in poi molte hanno fatto così. Però preferisco quelle che dall'eccesso sono passate a una regolazione del medesimo sopravvivendo anche a se stesse, penso a tanti miti che conosciamo, anche italiani, adesso senza stare a fare dei nomi, ma insomma coloro che sono riusciti a dare una regolata al proprio senso idiota, come direbbe Vasco Rossi, di dare comunque un senso all'esistenza, perché questa esistenza, questa vita, come dice la canzone, spesso un senso non ce l'ha. Il problema di Amy è che non era, secondo me, particolarmente attraente, e lo sapeva, per cui si conciava sperando di diventare un tipo e di interessare un uomo bello e per bene come questo regista, che invece francamente era probabilmente interessato ad altri tipi di donne e che oggi proverà un forte senso di colpa. Ma ciò non basta a farla resuscitare. Allora, la soubrette e la parola. Platinette mi ha aperto gli occhi, perché io nella prima parte stavo istintivamente contrario al mascella quadrata, al mascellone Red Travis, perché mi sembrava il prototipo di tutto ciò che Amy Winehouse non era mai riuscita a concepire davvero in un uomo. In un uomo aveva sempre trovato la mano che la portava più giù nella perdizione. E invece la soubrette della parola Platinette mi dice è il contrario, perché il problema è che quell'uomo per bene era quello a cui lei si è umiliata dicendo, esprimendo per una volta tutto quello che non aveva avuto il fegato di dire ai vari Pete Doherty e gli altri perduti: sposami, ti prego, è tutto quello che in realtà in parte vorrei e non riesco ad avere da nessuno. Quindi è molto più facile scivolare nell'eccesso che salire un gradino per uscire da quella cosiddetta e meravigliosa follia dell'essere unici. È molto difficile rientrare nella normalità, ma alla sera a casa si preferisce una carezza autentica piuttosto che ai 4 milioni della residenza di Camden Town e il vivere con una guardia del corpo, magari attraente, che magari per una sera può anche diventare un toy boy, ma la sera dopo, se la carezza non è autentica e sai che quella persona si preoccupa di te come tu ti preoccupi di lui, tutto il resto, compreso il successo, per una donna così e con un talento così formidabile, hanno poco senso, non è nichilismo, è l'idea che la vita altrimenti è realmente priva di qualsiasi senso, se non ha un passaggio che metta in armonia il privato con il lavoro che uno fa. Perché Mina è rimasta una delle poche sane di mente? Perché è riuscito a farlo. Perché è riuscito a farlo, perché gli eccessi li ha vissuti a suo tempo, anche eccessi relativi alla morale pubblica, relativi ai tempi, avendo un figlio fuori dal matrimonio con un attore importantissimo, allora famosissimo, come era Corrado Pani. Poi il marito che oggi ha, il cardiologo Quaini, gli ha detto: bella, tu diventerai mia moglie, adesso sei mia moglie, io a mezzogiorno voglio sapere che cosa c'è da pranzo, cucineremo magari un roast beef, ti va? La meraviglia che lo faccia ora che ha 4 ottave in gola. Appunto. Sentiamo un paio di ascoltatori come la pensano rispetto alla domanda: che cosa dite ai vostri figli di Amy Winehouse, di come è finita, come la sua vicenda e anche come era strepitosa in realtà la sua voce e tutta la sua dannazione in cui esprimeva questo talento di cui mi dolgo molto. L'esito non è all'altezza degli sviluppi che poteva darci. Sentiamo Luca. Luca ci chiama da Torino, prego Luca. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma volevo raccontarvi brevemente cosa è successo a casa mia, perché abbiamo avuto modo di vedere un film cartone animato con la mia bambina di 7 anni. Non ricordo il nome, ma c'erano 3 scoiattoli che cantavano. A un certo punto diventano delle rock star. Non so se avete presente di che cosa sto parlando. Comunque ripercorre la vita di questi 3 scoiattoli che finiscono nelle mani di un produttore che li spreme in assoluto per lucro. Sì. Dopo un po' di giorni succede quello che è successo a Amy e lei rivede in televisione alcune immagini della cantante, quindi tutto potenzialmente bello, sì, che segue alla comunicazione del suo decesso. Sì. La domanda è stata: ma mamma, papà, ma come può essere che una cosa così bella, perché chiaramente è quello che si è visto, che le arrivava, possa poi determinare il fatto che una persona muore così? A 7 anni, no. Questa è la domanda di sua figlia. E la vostra risposta? Siamo rimasti un po' con la pelle d'oca e abbiamo fatto fatica, molto francamente, balbettando. Gli abbiamo spiegato che questa persona ha avuto dei problemi personali, non ce l'ha fatta a superarli, probabilmente nessuno è stato in grado di aiutarla come si conviene, e che è molto importante il senso della famiglia, le persone care, comunque rivolgersi, avere dei riferimenti. Adesso voi sì, è chiaro, l'avete rassicurata. E la vostra bimba ha detto qualcos'altro? è rimasta in silenzio. E quello che poi a me e mia moglie, diciamo, dopo che è andata Nanna, ne abbiamo parlato, è come già a 7 anni, cioè, diciamo, ma io e te a 7 anni saremmo stati in grado, ma Luca, sì, su, sì, Luca, sì, ta, Luca, dai, ma non è che non sia il senso della vita, della morte a 7 anni, lo sia diverso, non lo so, io parlo per me, io ce l'ho da ben prima, nei 7 anni, mi ricordo perfettamente i miei primi ricordi organizzati, consapevoli, e di, quando mi sono posto alcune questioni relative alla vita e alla morte, e ne avevo, ben prima, cioè mi ricordo, avevo 5 anni e me lo ricordo perfettamente, perché mi ricordo l'intero pomeriggio che cosa ho pensato, mi ricordo qual è stata l'occasione, come ho continuato a pensarci nei mesi successivi, me lo ricordo come, non dico come se fosse ieri, ma sì. Quindi io penso che a 7 anni lo si inizia ad avere, ci sono delle esperienze, degli impatti. Io sono anche abbastanza convinto che poi bisognerebbe naturalmente avere l'esperienza della vita e della morte, che è ablata dalla nostra oramai quotidianità fino a età improbabili, perché la gente non muore più nelle case, e quindi da piccoli non si vedono più le persone che naturalmente muoiono. Va bene, io non ne sono affatto convinto, tanto per dirne uno. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, where my body's La vorrei sentire più a lungo, Valerie. Vabbè, ma comunque ve l'abbiamo fatta sentire almeno anche questa, con questi 3 spunti. Sentiamo Michele. Michele si chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Teniamo Valerie piano piano piano in sottofondo. Michele, allora, che ti ha fatto pensare? Ne hai parlato con i tuoi figli? Che è successo? Io ho una figlia adolescente, chiaramente conosce benissimo la Winehouse. Quello con cui abbiamo discusso è il fatto che una ragazza così talentuosa, ricca, non le mancava niente, uno potrebbe dire, a parte il disastro della sua vita privata. E l'effetto su mia figlia e credo anche sui suoi amici è quello che è successo anche con la mia generazione, quando è morto Cobain, quando è morto Hendrix e via dicendo, insomma, cioè uno spreco inutile. Solo questo, uno spreco totalmente inutile. Michele, io non so quanti anni hai tu. Io, la mia generazione era una generazione in cui nel liceo che frequentavo io, nelle pause, diciamo così, di lezione, c'era gente che si bucava nei bagni di eroina. Questo è, non posso dire che la mia generazione, il mio liceo a Torino, di figli di buona famiglia, io non ero un quartiere operaio, ma ero l'eccezione assoluta, non posso dire che all'epoca ci fosse uno iato vero. C'era una dannata immedesimazione, ma immedesimazione nel senso che era davvero il problema di una generazione, la gente che si ficcava gli aghi nelle vene e si faceva di eroina. Tra l'altro oggi tutte queste droghe con cui sono alle prese i figli dei miei amici, che invece si assumono in maniera meno drammatica, come devo dire, meno drammatica, perché ci si fa di pillola, ci si fa di cocktail, ci si fa di con la pipetta, il crack, eccetera eccetera, ho l'impressione che sia diventato tutto più easy anche da questo punto di vista. Dario, nei concerti di oggi di sicuro non c'è più tutto il contorno che c'era ai miei tempi 30-35 anni fa, è vero o no questo? Si deve anche al mondo della musica organizzata, sta più attenta oppure no? No, ci sono delle sacche molto pericolose che riuniscono tutto questo e che sono i rave party, come sappiamo, che sono l'elemento di grande pericolosità e infatti spesso diventano cronaca nera. Nei concerti propriamente detti, come sapete, c'è molto revival, ci sono molti ritorni, e quelli degli anni 70, 80, eccetera, lì si sta un po' tranquilli. Se è possibile, vorrei aggiungere una cosa: sicuramente ci sarà un fondo di verità in quello che ha detto Di Platinette quando ha fatto il discorso della carezza, un discorso un po' pastorale che ci rimanda a certe immagini di un grande comunicatore che era Papa Giovanni XXIII. Però io vorrei dire anche qualcosa sul musicale e sul canoro, perché sennò rischiamo solo, certo, di parlare del... Io che sono un grande appassionato di black music, io credo che la Winehouse sia stata l'ultima cantante di espressione nera straordinaria, condivido, pur essendo bianca, e a fronte di tanti bidoni che ci rifilano negli ultimi anni. Però mi stupisce che pochi giornalisti, anche stranieri o critici musicali, colleghi italiani, abbiano fatto un riferimento con Shirley Bassey, che secondo me è il grande punto di riferimento di Winehouse. Io invito un po' tutti, anche voi alla radio, a prendere un disco di Shirley Bassey, che è una cantante inglese come la Winehouse, oggi quasi ottantenne, ma che lavora ancora soprattutto in Inghilterra e a Las Vegas, e capirete come la modulazione, il colore della voce della Winehouse ricordi la Shirley Bassey, addirittura il fraseggio, e non è fortemente voluta questa cosa, che ha scelto un modello non da poco, ecco. Ricordiamoci anche di queste particolarità ora che ascolteremo di nuovo questi due dischi. Fra l'altro, sì, lei è il numero uno dello scarico, ma adesso arriverà un body and soul, non a caso uno standard degli anni 30 che tutti i jazzisti hanno proposto in mille salse, dove lei duetta con Tony Bennett, non a caso un crooner. Ecco, quindi vedete che queste cose si ricongiungono, i gusti musicali della Winehouse erano ottimi e le influenze ancora di più. Peccato, Platinetta, ai figli che... dal punto di vista musicale aggiungere un dettaglio, sì, a ciò che ha detto Dario, che l'ultimo singolo che girava nelle radio in queste settimane era una vecchia canzone degli anni 60, It's My Party, sì, di Leslie Gore, con l'arrangiamento di Quincy Jones, quindi a maggior ragione l'unione del passato e il suo bagaglio musicale erano formidabili, ma era paradossalmente una canzone molto allegra, a differenza di tutte quelle che ha cantato, perché il taglio vena era garantito se tu una sera eri depressa e volevi conoscere il fondo del barile, mettevi su uno dei due album della Winehouse e poi ti facevi una Winehouse di serata di quelle che francamente dopo ci vogliono gli antidepressivi per tirarsi su. E questo noi nel nome di Emi continueremo a farlo. Sbaglia chi in ascolto a credere che non lo facciamo anche nel nome di David Tobin, il caporal maggiore dei paracadutisti. Ripeto, in tutti, a ciascuno di loro ho dedicato onore e memoria, ma ripeto, proprio per questo, amavai Queens tra l'altro, David Tobin, proprio per questo, di fronte alla morte di un Amy Winehouse, io credo che dobbiamo ricordare il suo talento, la sua musica e porci il problema, come abbiamo fatto col dottor Vincenzo Marino, con Annalena Benini, anche di spiegarla ai nostri figli, per dire io mi riconosco un po' nel messaggio, Dario ha detto, un po' pastorale di Platinette. Sì, sì, io credo che la vita nella sua essenza sia una carezza e la condivisione, anche forte individualità nel mio caso, ma credo che queste cose, se non ci sono, travolgono e portano in quell'abisso in cui è finita, in basso, no, io penso comunque in alto. Amy Winehouse, Amy, canta per noi Da Dove Stai, a domani, Rina Generale Radio. Datemi retta.